Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiano, in onda in genere tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20. Dico in genere perché era da un po' che mancavamo, eravamo tornati così a bomba per la puntata delle canzoni di Natale, lo speciale natalizio pochi giorni prima appunto del Santo Natale, insomma a fine dicembre, ma prima mancavamo da un po'. Bene, ora con l'inizio del 2021 23, ritorniamo davvero in onda tutte le settimane come era tradizione da tantissimi anni. Ricordo che Zibaldone è nato nel 1997 e qui l'equipe formata da me e da altri collaboratori come il Banzo, che troverete tra poco, Fausto De Salvia, lo portiamo avanti ormai da una dozzina d'anni. Bando alle ciance, ritorna Zibaldone, buon venerdì pomeriggio a tutti. Saremo insieme per due ore ricche di musica, ma ricche anche di tante altre cose, di politica. Parleremo soprattutto, insomma, di una situazione che ci preoccupa parecchio. Quale direte voi? Beh, forse ascoltando questa canzone capite al volo di cosa parleremo quest'oggi. Alla morte e lotteremo sempre forte e forte, finché terremo il nostro sangue in cor, sempre inneggiando la patria nostra. Vabbè, no dai, basta, qui chiudiamo, perché uno magari ascolta, sta ascoltando Radio Contrabanda ora, o insomma ha scaricato il nostro podcast e dice: beh, ma insomma qua, che programma è questo? Dice: beh, consono ai tempi, uno potrebbe dire, non quelli degli anni 30 ma quelli degli anni 20 del nuovo millennio. Banzo, non so tu come la vedi, però insomma non so cosa può pensare un ascoltatore, però ecco, superiamo subito questo impasse. Beh, era un inizio un po' what the fuck, ecco. Aspetta, che non ho detto buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, però era un inizio talmente what the fuck che non sono riuscito a badare alle liturgie più elementari. Hai ragione. Eccomi qua, ed effettivamente meno male che l'hai tenuta pochissimo, perché si voleva lanciare un messaggio ma non si voleva cadere in equivoci. E a proposito di questi equivoci, volevo ricordarti uno che sovviene dagli abissi della mia memoria, sotto un brano degli Affluente, gruppo storico dell'hardcore italiano fieramente anarchico. Su YouTube il brano si chiama Bandiera Nera ed era chiaramente, il testo era chiaramente una presa in giro degli slogan di destra. E a un certo punto appare un fascista o nazista direttamente, che salutava dicendo: grandissimi, non li conoscevo, 88, che è un tipico saluto nazista cifrato, e un altro rispondeva: coglione, non ti rendi conto che ti stanno prendendo per il culo, imbecille? Ecco. Vabbè, è un buon inizio, Banzo, grazie per questo aneddoto, bentornato e buon pomeriggio anche a te. È molto informale, ecco, a volte siamo più ingessati all'inizio, ma è... appunto, praticamente è l'inizio di una nuova stagione e è cominciata in un modo veramente inusuale. Adesso ritorneremo un pelino nei ranghi. Sì, è cominciata in modo inusuale, ma insomma, a proposito del brano Allarmi siamo fascisti, uno degli inni del fascismo del ventennio, insomma, è duopo ricordare che lo scorso 28 ottobre del 2022 era il centenario della Marcia su Roma e pochi giorni prima, il 22 ottobre dello scorso anno, aveva preso possessione il nuovo governo italiano, guidato da una premier che è figlia di quella tradizione, di quella cultura politica, ossia Giorgia Meloni. Con questo non stiamo dicendo che Fratelli d'Italia e il governo italiano sia un governo fascista, sì, è un governo di destra radicale o addirittura di estrema destra, e a questo dedicheremo la puntata di quest'oggi di Zibaldone, 100 giorni di Giorgia, che non è banzo, adesso che lo stavo dicendo, 100 giorni di Made in Italy, che credo che fosse una canzone, visto che siamo quasi ormai nelle date di Sanremo, di qualche tempo fa, che si presentò all'Aris, se non sbaglio, non so, dimmi, correggimi. Sì, adesso la dovrei ricontrollare, ma il riferimento è sanremese, ma i 100 giorni sono comunque una buona unità di misura in politica. Non so se ricordi che temporibus illis Silvio B. aveva annunciato che avrebbe risolto il conflitto di interessi a 100 giorni dall'insediamento, mi sembra in occasione della vittoria del 2001, ma correggimi se sbaglio, e insomma sappiamo poi che le cose hanno avuto, diciamo, tutt'altro corso, e si poteva dire anche allora che si trattava di una promessa da, ma neanche da marinaio, perché sono sicuramente più rispettabili di Berlusconi, ecco. Vabbè, dai, andiamo ad ascoltarci un po' di musica per scaldare i motori, perché avremo vari ospiti nella puntata di quest'oggi, e andiamo anche verso altre latitudini dove insomma sono arrivate pessime notizie, questo è vero, all'inizio di quest'anno, ma invece elettoralmente delle belle notizie. Sto parlando del Brasile, con la vittoria di Lula, che più o meno ha coinciso con l'insediamento del governo Meloni. Andiamo ad ascoltarci questo brano storico bellissimo di Caetano Veloso, O Imperio da Lei, e dopo quello che è successo a Brasilia, forse questo titolo ha ancora più significato. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar lá. Quem matou meu amor tem que pagar, e ainda mais quem mandou matar, ter o olho no olho do jaguar, virar jaguar. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar lá. Quem matou meu amor tem que pagar, e ainda mais quem mandou matar, ter o olho no olho do jaguar, virar jaguar. O império da lei há de chegar no coração do Pará. Thank you. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar lá. Quem matou meu amor tem que pagar. E ainda mais quem mandou matar, ter o olho no olho do jaguar, virá jaguar. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei, Caetano Veloso, dall'album Abrasasso, era il 2013, praticamente 10 anni fa, quando ancora governava Dilma Rousseff e insomma non sembrava ancora Banzo essere arrivato, no? Insomma, tutto quello che poi è successo negli anni successivi in Brasile. Sì, che riguarda il mondo intero. Le elezioni in Brasile sono probabilmente le più importanti come proiezioni internazionali, fra le più importanti come proiezioni internazionali, perché insomma, anche solo pensiamo all'Amazzonia con i problemi climatici che abbiamo, ecco, è facile intuire perché il perché della mia affermazione. Però ecco perché ci siamo buttati dopo quella falsa pista all'inizio, per fortuna falsa, perché ci siamo buttati sulla musica brasiliana, si chiederà l'ascoltatore. E noi rispondiamo che appunto è stata una maniera di sottolineare gli ultimi eventi in Brasile che ci hanno ovviamente preoccupato da lontano, cioè diciamo il replay dell'assalto al Campidoglio in versione brasiliana l'8 gennaio per l'insediamento di Lula con i supporti di Bolsonaro che hanno dato una dimostrazione esemplare della loro nulla cultura democratica. Quindi, alla ricerca di un commento musicale a questi eventi che non volevamo passare sotto silenzio, abbiamo fatto ricorso a una playlist che lo stesso Caetano Veloso aveva pubblicato nel 2018, dopo la vittoria di Bolsonaro, a titolo Politica o Pulicica, con la pronuncia più brasiliana, che sostanzialmente raccoglieva canzoni per attraversare questo periodo, quel periodo che si pronunciava molto, molto cupo per molti brasiliani, e siamo contenti di aver visto la luce del tunnel, anche se con questo bruttissimo colpo di scena. Eh sì, insomma, ci auguriamo che i prossimi mesi per Lula, insomma, le cose vanno bene. Comunque noi le seguiremo anche qui da Zibaldone. Quest'oggi parleremo d'Italia, è vero, ma ci accompagnerà la musica brasiliana, un po' come contraltare alla situazione attualmente in Italia, dove insomma invece appunto la luce non si vede ancora alla fine del tunnel, no? È appena cominciata l'era Meloni, vedremo quanto durerà. Quest'oggi ne parleremo con diversi esperti, giornalisti che seguono da molto vicino la politica italiana e anche le questioni relative alla destra, di governo e non, come sono Francesco Olivo, giornalista della Stampa, e Leonardo Bianchi, news editor di Vice Italia. E poi ci saranno le nostre rubriche, torneranno le ultimissime, insomma ci sono parecchie cose, ci sarà anche una nuova sezione che non ve l'annuncio, cioè ve l'annuncio ma non vi dico che cos'è. Noi Banzo andiamo subito a bomba con un'altra canzone che io amo particolarmente, è secondo me una canzone bellissima, un album meraviglioso, Meus Caros Amigos. Qui sì che torniamo agli anni 70, era la seconda metà degli anni 70, Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento, O che sarà a flor da terra, una canzone bella, bella, bella. E poi troviamo Francesco Olivo. O che sarà che andam sospirando pelas alcovas, che andam sussurrando in versos e trovas, che andam combinando no breu das tocas, che andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria fantasia dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestir, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. E abbiamo ora in collegamento telefonico con noi Francesco Olivo, giornalista della Stampa, inviato parlamentare, segue tra l'altro nello specifico proprio insomma le vicende del governo e della destra in Italia. Francesco, bentornato a Zibaldone, un piacere averti con noi. Ciao Steven, buonasera. Ascolta, con te vogliamo un po' cominciare questo speciale di Zibaldone dedicato ai primi 100 giorni, indicativamente occhio e croce del governo Meloni, un po' qual è la situazione dell'esecutivo italiano, la situazione italiana in generale e poi anche la situazione nella coalizione di destra. Comincerei un po' con te dal dire insomma alla fine che cosa ha fatto questo esecutivo in questi primi 3 mesi, soprattutto qual è un po' la percezione che si ha dopo 100 giorni di un governo che, lo ricordiamo, si è insediato lo scorso 22 ottobre. Guarda, proprio perché il governo si è insediato il 22 ottobre e per la prima volta in Italia, come sai, si è votato in settembre, questo governo è stato impegnato principalmente, direi quasi esclusivamente, nella legge di bilancio, che appunto invece i governi precedenti potevano gestire con tranquillità, mai, però insomma nemmeno con l'ansia, diciamo, forzate. Esattamente. Esatto, sì, sì, sì. Dell'esercizio provvisorio che, a differenza di quanto è avvenuto in Spagna per molti anni, da noi ormai nella Seconda Repubblica mai si è andati in esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio sarebbe, diciamo, scatta quando non si riesce a approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre. Quindi c'era la scadenza 31 dicembre. E pochi mesi, quindi appunto 2 mesi scarsi per poterla, prima varare in Consiglio dei Ministri e poi il passaggio parlamentare, che come sappiamo è sempre lungo e complicato. Quindi è stato, io credo che da una parte è stata una prova del fuoco per un governo nuovo, è un governo molto nuovo nel caso di Palazzo Chigi, cioè fatta di un piccolo nucleo intorno a Giorgia Meloni, poi magari ci torniamo, che lì non c'è stato mai, diciamo, è un piccolo partito, adesso è diventato molto grande, che però è sempre stato l'opposizione, eppure avendo imbarcato, no, diciamo, politici che invece avevano governato, come tutto sommato la stessa Meloni che era stata ministra, però diciamo questo partito, Fratelli d'Italia in particolare, non aveva mai governato. Quindi prova del fuoco da una parte, ma dall'altra tutto sommato percorso segnato. Diciamo che Meloni non si è dovuta inventare nulla, anche perché questa legge di bilancio, vista la situazione economica europea, italiana in particolare, doveva essere, diciamo, tutta per 2/3, quindi in gran parte destinati i fondi al contrasto all'aumento dei prezzi dell'energia. Quindi diciamo che da un certo punto di vista il compito era complicato da un punto di vista tecnico, ma non complicatissimo da un punto di vista politico, perché se posta noi abbiamo, come stiamo facendo adesso, no, sempre un po' l'orizzonte dei 100 giorni come il momento in cui i governi marcano un po', no, il terreno e così si presentano, diciamo così, all'elettorato, questa volta non c'è stato molto da inventarsi, perché appunto c'era una legge di bilancio da fare, e c'era una legge di bilancio già a grandi linee impostata dal governo precedente e obbligata dalla situazione generale. Collegandosi con quello che stai commentando, è vero assolutamente, no, quello che tu dici, la centralità della legge di bilancio per quanto riguarda il nuovo governo, ma dall'altra ci sono state una serie di prese di posizioni invece, diciamo così, sì, più identitarie. Penso sì al cosiddetto decreto rave, penso alle questioni sì sul POS, penso alla questione sì delle ONG e dei migranti nel Mediterraneo. Come no? Sì. Sì, allora, il decreto rave è interessante, il decreto rave, diciamo questo provvedimento poi chiamato decreto rave è interessante, perché è un provvedimento che arriva, se non sbaglio, un sabato, adesso vado un po' a memoria, nel primo vero Consiglio dei Ministri di Giorgia Meloni, perché vabbè, il primo dura 5 minuti, è solo formale, il primo vero Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'erano poche... così, diciamo, poche voci interessanti, ma siccome io credo che questo sia un punto interessante anche per studiare, come dire, come tu hai fatto molto bene nella tua carriera, i populismi di destra in particolare, no? E nei giorni precedenti, anzi proprio direi il giorno prima e quel giorno del Consiglio dei Ministri, c'era stato un rave insieme in provincia di Modena. Sì, sì. Sì, insomma, diciamo, era il classico caso che occupa così le pagine di giornale, neanche tantissime, francamente, perché non è successo niente di che, però, insomma, diciamo, viene individuato da Giorgia Meloni come un momento per far appunto vedere la discontinuità, no? Siccome c'è troppa continuità in politica economica, nella politica economica e in politica estera, magari dopo ci arriviamo, qualcosa per far vedere che il governo era cambiato e non solo che c'era una donna a Palazzo Chigi, ma che c'era una donna di destra. Quindi quale migliore occasione? Il rave. E il rave diventa il primo provvedimento del governo, e salvo che è un provvedimento che un po' indurisce le pene per gli organizzatori dei rave, e lì poi si è giocato molto e si è tutto reso complicato, comunque punisce in qualche maniera, multa i partecipanti di queste feste illegali organizzate in luoghi di solito isolati, cioè. E quindi con la retorica di dire queste cose adesso è finita la pacchia, solo in Italia si fanno, e chi sta in Spagna sa benissimo che non è così, perché in Spagna mi pare di aver sentito che solo pochi giorni fa se ne è organizzato uno molto grande, non so se nella provincia di Valencia mi pare, o Castellone, insomma. Cioè, non sono cose nuove, diciamo, avuti, in queste latitudini. Ne ha avuti tantissimi, questa, la Francia, la Germania, ce ne sono tanti. Questa roba succede solo in Italia, Meloni lo ripete spesso, ma evidentemente funziona così. Comunque, quindi, quale migliore occasione? Un decreto rave. Poi, però, questo decreto rave in realtà ha molti problemi. È stato fatto un po', diciamo... Sì, pasticciato, perché come tutte le cose che si fanno di corsa, perché il rave era appunto appena iniziato, quindi evidentemente non era stato programmato di farlo, e poi piano piano è stato modificato e in Parlamento ha rischiato molto seriamente di non essere, poi sappiamo che dopo 60 giorni i decreti devono essere convertiti per legge costituzionale, e devono per diventare legge devono essere votati dalle Camere, e si è dovuti ricorrere al voto di fiducia, perché stavano scadendo i 6 mesi proprio prima di Natale, dopo Natale, prima di Capodanno, perché tanto era pasticciato che sono arrivate varie versioni, parte della maggioranza, in particolare Forza Italia, ha notato che era, come dire, uno strumento assolutamente, appunto, di populismo giudiziario cosiddetto. Ecco, e però, di, sì. Però questo, quello che tu dici è molto interessante, perché a me sembra che la dinamica che si è vista nel cosiddetto decreto rave si trovi in realtà, salvando tutte le distanze, anche in altre dichiarazioni o misure che il governo vuole prendere o ha voluto prendere. Penso anche, prima citavo la questione del POS, la questione dei contanti, la questione della benzina, la questione dell'ONG, ossia ci sono delle sparate retoriche, diciamo, che insomma finiscono sempre sulle prime pagine dei giornali, che poi però o non si concretizzano in una legge propriamente detta, oppure ci sono addirittura dei cambiamenti anche di 180 gradi, oppure siccome sono delle cose pasticciate come quello che tu raccontavi dei rave, alla fine vengono cambiate per una cosa o per l'altra. A te sembra corretta questo breve riassunto? Completamente corretta. Sì, completamente corretta. È come se Giorgia Meloni continuasse anche da Palazzo Chigi questa coabitazione, direbbero i francesi, questo come dire, doppio binario che abbiamo già visto durante la campagna elettorale. Quindi da una parte rassicurare i mercati, l'Europa, e, insomma, no, questo l'abbiamo visto durante la campagna elettorale, quindi non ci torniamo, e dall'altra però dire noi l'identità non la dimentichiamo, no? Il suo libro, che la sua autobiografia, che io ignoro chi sia il vero autore, so che c'è ma non so chi sia, è un libro anche interessante. Anche molto meglio di quello di Salvini invece. E questo io devo dire che lo scopro da te, perché non mi sono esercitato, ma però puoi farne a meno, puoi farne a meno. Però sì, no, dicevi che nel libro Io sono Giorgio, no, che è un best seller, insomma, successo di vendite del 2021, quando Fratelli d'Italia stava cominciando, insomma, a convertirsi nel primo partito. Ascesa. Certo. No, ed è interessante perché lei ripete molto spesso in questo libro: io non voglio perdere l'identità, no? Non voglio perdere me stessa, quasi lo dicesse a se stessa, appunto, no? E, sapendo prima o poi di dover arrivare dove sta, comunque avendo quello scenario in testa, lei è attenta a dire: io non voglio perdere quella che sono, no? Che è un aspetto anche umano interessante, che però, come dire, facile a dirsi, bello anche a sentirsi, ma complicato poi nel giorno per giorno, diciamo, del governo. E quindi ci sono alcuni temi, e quello della benzina è stato un altro caso clamoroso, no? Mm-hmm. Perché davanti a un provvedimento, ricordiamo qual è, cioè come dire, il governo non ha rinnovato lo sconto sulle tasse che ci sono sulla benzina e sul diesel, il governo non l'ha rinnovato, quindi al primo gennaio i prezzi sono aumentati notevolmente, insomma. E questo era però già presente nella manovra, cioè era chiaro, era stato detto e deciso. Tutto sommato era un provvedimento che non aveva trovato troppa opposizione, sì, un po' nella Lega, ma neanche nelle opposizioni, perché è chiaro che in un momento di ristrettezze economiche dire questo sconto costa 10 miliardi di euro l'anno, con quei soldi si fa altro, è un discorso tutto sommato ragionevole, credo io, e che nessuna delle opposizioni ha davvero contrastato nel merito. Però qual è stato il problema? Che aumentano i prezzi della benzina, come è normale, e la Meloni convoca il generale della finanza a Palazzo Chigi per degli speculatori, benzinai speculatori, e si manda in giro la voce che in realtà non è colpa del governo, ma appunto di fantomatici commercianti che ci speculano, e quindi si crea un mostro che poi in più il video, lei fa un video per spiegare tutto questo, perché è chiaro che lì la sua forza comunicativa si perde, e quindi alla prima battuta d'arresto fa un video per dire: signori, io non avevo mai detto, perché appunto alla coerenza lei tiene moltissimo, dice: io non avevo mai detto, però c'era sul programma di Fratelli d'Italia, avrei tagliato le accise, come si chiamano, le tasse sul carburante. E poi dopo un minuto, perché questi sono tempi dove mentire è un po' più difficile, diciamo, è il buono, no, delle reti sociali e del, insomma, di questa contemporaneità così tutta collegata in continuazione, e dopo un minuto su Twitter si tira fuori la voce, il punto, mi pare 17 del programma, dove c'è scritto che l'obiettivo era tagliare le tasse. E quindi, insomma, quella è stata una battuta d'arresto, è un altro cortocircuito, diciamo, del populismo, se vogliamo. Sì. E prima parlavi di politica estera, io credo che questo sia un punto molto importante, perché credo che sulle relazioni internazionali si gioca la capacità di durare di questo governo, no? Bruxelles, Washington, Kiev, sì, direi forse in primo luogo, forse poi c'è anche Berlino e Parigi, ma su questo... Sì, Varsavia pure un pochino, no? Esatto, volevo sentire un po' la tua opinione. Insomma, Fratelli d'Italia è un partito che, insomma, membro, Meloni è la presidentessa dell'ECR, i Conservatori e Riformisti Europei, insomma, insieme a Vox, a Diritto e Giustizia in Polonia, ai Democratici di Svezia, insomma un partito che ha avuto ottime relazioni, le ha tuttora, con Fidesz e il governo ungherese. Fidesz è il partito di Viktor Orban, e insomma adesso si deve muovere anche su altre coordinate, non può solo giocare, sì, diciamo, nell'estrema destra. Ecco, tu come hai visto questi primi mesi, come si sta muovendo questo governo? Allora, io credo che questo in campagna elettorale era stato preparato bene, come, cioè, il messaggio di tutto sommato che non si, io non vengo qua per sfasciare tutto, no? Lei lo ha detto nel suo primo viaggio a Bruxelles, e mi sembra interessante, mi sembra che così sia stato, e tornando alla legge di bilancio, la legge di bilancio dimostra che non si è voluto fare nessuno strappo con la Commissione europea. Certo. Questo è molto importante. La Commissione europea, d'altronde, ha approvato senza particolari obiezioni la legge di bilancio, quindi segno che era vero quell'impegno, no? Che in parte contrasta con la campagna elettorale che era stata finita la pace, diciamo, con le cose che il centrosinistra aveva utilizzato in campagna elettorale. Questo va detto. Il problema è che c'è stato un incidente grave in questo primo mese, nel primo mese, anzi a meno di un mese dall'insediamento, mi pare intorno all'8 di novembre, una crisi diplomatica importante con la Francia. Anche lì una crisi figlia, io credo, più dell'impreparazione, dell'ingenuità, se vogliamo, dei neofiti al governo, a Palazzo Chigi, più che di una scelta materiale, perché anche qua racconterei l'episodio solo perché mi sembra emblematico. Arrivano le prime navi, diciamo, dell'era Meloni, delle organizzazioni non governative, con dei migranti, diciamo, così, salvati nel canale di Sicilia. Arrivano e non si capisce se i porti si aprono, se si dà le capitanerie di porto, danno il permesso a entrare, no. Si lasciano per un po' in rada, cioè, momenti, prima poi arriva una direttiva a far scendere solo gli uomini, solo i bambini e le donne, poi i malati, e poi i medici fanno scendere tutti, insomma una confusione assoluta, perché non c'era una linea. E cosa succede? Che la Francia si offre per un dialogo, la Germania e la Norvegia, mi sembra, rifiutano il principio che l'Italia ha cercato di imporre all'inizio, cioè che lo stato di bandiera, diciamo, di cui batte la bandiera della nave che salva i migranti, si deve fare carico di quella nave. Ovviamente siamo davanti a una cosa irrealizzabile, perché è evidente che una nave di fronte alle coste siciliane, calabresi o addirittura di Lampedusa non può andare in Norvegia per far sbarcare delle persone raccolte nel mare gelido, no? È evidente. Quindi le ambasciate di Norvegia e Germania rispondono, i governi, no? Norvegia e Germania rispondono che non se ne parla neanche, che non è prima si salvano i migranti e poi semmai si parla, lavora, esatto, alla ridistribuzione, eccetera, e quindi ha una solidarietà verso il paese che accoglie. Il problema è che il problema sorge poi con la Francia, perché una di queste navi ha la bandiera francese, eccetera. Che succede? Che la Francia si dimostra, Macron e Meloni, che si erano incontrati a Roma in maniera del tutto appunto casuale, casuale, diciamo non programmata, perché Macron era venuto a Roma per un incontro con Sant'Egidio, la comunità di Sant'Egidio. Meloni aveva giurato il giorno prima e quindi di domenica si vedono in un albergo di Roma e diciamo fanno il primo bilaterale, anche se informale, però significativo. Succede che il governo francese dà lo stesso Macron, come dire, una promessa di aiuto all'Italia in caso di sbarco, cioè dopo lo sbarco, e però arriva, mi pare che siamo all'8 di novembre, arriva un'agenzia ANSA del pomeriggio dove, che citando fonti anonime del Ministero dell'Interno francese, dice che il Ministero vuole dare l'ok per uno sbarco in Francia, per accogliere la nave direttamente al porto di Marsiglia. Silenzio, passano alcune ore, 4-5, e il governo italiano emette un comunicato dove ringrazia il governo francese per questo gesto. Peccato che questo gesto non c'era mai stato. Cioè il governo francese mai aveva dato l'ok, sì. E che tutto poi, quindi scoppia arrivano delle note durissime dall'Eliseo, eccetera. Cosa era successo? Meloni lo ha raccontato qualche giorno dopo e noi lo avevamo poi sui giornali già ricostruito. Tutto si era basato su una agenzia ANSA, che infatti io avevo citato, che appunto però ha fatto il suo mestiere, ma ha citato fonti anonime, per cui non poteva essere fonte, diciamo, di diritto per un governo. In quelle ore nessuno si è brigato di dilettantismo e di impreparazione totale, dicendo. Solo che lì ha aperto una crisi diplomatica seria con un paese ovviamente vicino e strategico per tante partite europee come la Francia, mettendo in difficoltà Macron sul piano interno, che sappiamo essere preso da due fuochi, no? L'estrema destra, certo, e la sinistra, certo, molto forte in Parlamento. Lo ha messo con le spalle al muro, lui ha dovuto accogliere quella nave, ma con una modalità che lo ha offeso personalmente, e i due non si sono mai più sentiti e visti solo di sfuggita dei vertici internazionali, senza mai un incontro bilaterale, fino a tre giorni fa, quando c'è stata una telefonata che però, insomma, certo, non ha però, Francesco, cambiato. Tirando un po' le fila di questo della politica estera, insomma, al di là del caso della Francia, e comunque che insomma rinforza questo punto che tu hai già menzionato, sia l'impreparazione, questo dilettantismo, no? Però, insomma, pensando al G20 di Bali, all'incontro sul clima in Egitto, che sono stati appunto delle riunioni internazionali importanti per i primi mesi del governo Meloni, ma sì, poi insomma gli incontri a Bruxelles, a Bali, poi insomma l'incontro anche con l'amministrazione nordamericana, insomma, a te qual è l'impressione che hai? Con la Cina, certo, certo. Insomma, certo. Meloni alla fine è stata bene o male accettata, finché rispetta una serie di, sì, linee rosse, diciamo, è questo un po' il sunto che possiamo tirare. Sì, è chiaro che noi adesso non abbiamo parlato di guerra in Ucraina, ma è il capitolo più importante, come dire, no, il perno delle relazioni internazionali oggi. Su questo punto credo che Fratelli d'Italia sia stata molto chiara sin dall'opposizione, dando un appoggio senza alcuna ambiguità, che invece avevano i Lega e Forza Italia, nessuna ambiguità sull'appoggio all'Ucraina. E quindi questo è, che era una maniera di preparare il proprio, come dire, arrivo, no? E la propria, il fatto di essere accettati nella comunità internazionale, questo, specie con gli Stati Uniti, questo è stato decisivo, e la Meloni lo ha portato avanti anche in questi mesi. Adesso probabilmente andrà a Kiev, lei ha detto prima, del 24 febbraio, anniversario della guerra, e quindi anche rispetto agli Stati Uniti questo è stato assolutamente decisivo. Quindi io credo che il grosso si gioca la partita, diciamo così, del G7, la partita dei grandi gira intorno all'Ucraina. L'Italia ha rinnovato l'impegno, anzi non ha rinnovato, l'invio di armamenti, e anzi vuole incrementarlo, partecipare a questo scudo antiaereo di cui si è posto Zelensky a gran bisogno. E quindi, insomma, da questo punto di vista la fedeltà atlantica è stata talmente ribadita che non può essere francamente un oggetto, diciamo, di dubbio da parte degli Stati Uniti. Io credo che questo sia un atteggiamento, diciamo, che ricorda più il governo polacco che altri governi europei, e quindi l'alleato storico che dicevi, alleato storico, diciamo, alleato anche così transnazionale del partito di Meloni, però insomma è stato l'elemento chiave. E chiudo con un'ultima domanda, anche per un po' per tirare le fila con te, che riguarda la coalizione. Insomma, il governo di Meloni non è un governo di un solo partito, come sappiamo, ma c'è anche la Lega, c'è anche Forza Italia, che insomma fin dal giorno dopo la vittoria elettorale, insomma, hanno posto in alcuni casi delle condizioni, hanno creato anche delle situazioni piuttosto scomode per la Premier, eccetera eccetera. Tu come vedi questa alleanza, questa coalizione, e da qui anche tenendo conto delle questioni che abbiamo toccato poc'anzi, quanto durerà per te questo governo? Allora, in grande sintesi, io credo che ci sono grandi diffidenze tra i tre partiti, ma Meloni ha una posizione di forza che le viene non tanto dal grandissimo consenso, ma le viene da due debolezze che trova intorno a sé. Una è quella dell'opposizione, che è divisa in tre blocchi a loro volta molto litigiosi, e un'opposizione tra virgolette interna, diciamo i soci di coalizione, che sono molto deboli. Quindi queste due debolezze sono la sua forza per il momento, e per il momento hanno arginato la minaccia interna, no? Perché io credo che lì Meloni sappia benissimo che sia Lega che Forza Italia vivono molto male la leadership di Giorgia Meloni, e Berlusconi in particolare non fa molto per nasconderlo, e l'accusa di questi mesi è da parte delle altre due forze di maggioranza, Lega e Forza Italia, è di una gestione molto arrogante e molto, quindi, diciamo, poco collegiale, sia dell'aula, sia del Parlamento, che del governo stesso. Quindi io vedo, per il momento c'è una situazione dove Forza Italia è particolarmente critica e lo lascia trapelare spesso e volentieri. Anche sulla benzina c'è stata una presa di distanza, eccetera. Mentre Salvini ha un atteggiamento molto peculiare, almeno per la sua traiettoria politica, che è quello di stare fondamentalmente in silenzio, di occuparsi solo di cantieri e opere pubbliche, cioè l'oggetto, diciamo, del suo ministero. Lui, ricordiamo, è il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, quindi lui si occupa solo di quello, non interviene mai sulla politica nazionale, ed è la prima volta che succede da molti anni, da quando lui è in politica. E perché lo fa? Perché da un certo punto di vista, si vuole presentare come l'uomo del fare, eccetera. Ci sono le regionali fra meno di un mese in Lombardia, nel Lazio, in Friuli, e quindi vuole cambiare un po' la sua immagine, ma da un altro punto di vista vuole evitare di fare il parafulmine dei problemi che la Meloni avrà, e già appunto con la benzina abbiamo visto sta cominciando ad avere. Quindi da lui non è arrivato assolutamente nessuna critica esplicita, ma nemmeno un sostegno nel momento in cui sarebbe servito, cioè nella piccola crisi comunicativa delle accise della settimana scorsa. Quindi io credo che dopo le elezioni regionali, se le elezioni regionali andranno male per Salvini in Lombardia e per Forza Italia nel Lazio, e andranno invece bene, come immagino, per Fratelli d'Italia, io credo che lì un po' di fibrillazione le vedremo, perché nessuno vuole, come dire, può portare in gloria leader di un altro partito e a proprio danno, è cosa che invece sta succedendo. Quindi io credo che per le fibrillazioni vere e proprie dobbiamo risentirci dopo il 13 febbraio. Sì, assolutamente, credo che sia una data molto molto importante quella di cui tu parli, quella delle elezioni regionali. Vedremo quello che succederà. Francesco Olivo, giornalista della Stampa, inviato parlamentare, grazie di essere stato con noi quest'oggi. E grazie, ci sentiremo a voi. Presto. Buon pomeriggio. Un piacere, ciao, a presto. Nasci lá na Bahia de Mocambo. feitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Mulher que fala Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. E a mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar. O rico acorda tarde e já começa a resingar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babá lorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra pôr pra trabalhar gente. Che bella, la voce di Nara Leão. Torniamo alla musica brasiliana. Che bella questa canzone, il cui testo è stato scritto da uno dei grandi poeti brasiliani, Vinicius de Moraes. Era il 1964. Il titolo di questo brano è Maria Moita. Dopo aver parlato con Francesco Olivo, ritorniamo almeno musicalmente, Banzo, al Brasile. Però ecco, io ti volevo domandare una cosa, Banzo, ci sei? Ci sono, ah, ci sei. Ecco, non ti vedevo, non ti sentivo più. Allora, allora ti volevo domandare, dico, ma non abbiamo mai parlato, ma quando c'è stato il 28 ottobre scorso il centenario della marcia su Roma, insomma, tu tra l'altro da romagnolo come l'hai vissuto? Cioè avere lì di nuovo, cioè non so se, vabbè, insomma, con Meloni. Mi sono afferrato con forza al fatto che vivo fuori dall'Italia, molto banalmente, perché sì, psicologicamente era un momento difficile da gestire e devo dire che lo stavo cercando di esorcizzare anche in un altro modo, se mi permetti facciamo una piccola rivelazione ai nostri ascoltatori. Con il nostro caro Fausto De Salvia avevamo anche valutato di preparare una puntata tematica per esorcizzare questo evento che, diciamo, mostrasse attraverso una selezione musicale adeguata la tetra ridicolaggine del fascismo, ecco. Poi evidentemente le vicende di Zibaldone sono state altre e non abbiamo potuto farlo. Però volevo dire che, ecco, mi hai chiesto come ho superato questo evento, ecco, c'era anche questo progetto, ecco, un po' per esorcizzare il centenario della marcia su Roma, che ricorreva con, che coincideva perfettamente con l'insediarsi di un governo di radice, ecco, fascista o perlomeno post-fascista sicuramente. Sì, o come dice Paolo Flores d'Arcais, direttore e fondatore di Micromega, neo-post-fascista, unendo insomma le due possibilità. E in ogni caso, insomma, perché sì, è una definizione accurata, perché effettivamente ci sono delle differenze rispetto al fascismo classico, che insomma, c'è anche bisogno di commentare troppo dettagliatamente. Però ecco, c'è una ricicciatura, se mi permetti, ecco, termine non molto elegante ma efficace, che però mantiene molto saldi alcuni aspetti di quella tradizione fast. Mm-hmm. Comunque, insomma, tieniti buona quella puntata per il 2023, perché per non il centenario, ma i 101 anni della Marcia su Roma, magari ci torna comodo, perché insomma, anche come ci spiegava Francesco Olivo, insomma, la durata di questo governo, al di là di quello che si diceva dopo il voto del 25 settembre, non sembra, insomma, essere così breve, insomma, o durare così pochi mesi, appunto, come si preannunciava. L'inverno sembra molto lungo, e speriamo con questo piccolo ricordo dell'autunno di avere creato un po' di hype nei nostri ascoltatori, perché potrebbe venire una puntata molto interessante. Ecco. Eh sì, noi andiamo avanti e ritorniamo, anzi continuiamo con il Brasile. Più di 50 anni fa Caetano Veloso scriveva un brano bellissimo insieme a Gilberto Gil, Divino Maraviglioso. Noi ci andiamo ad ascoltare una versione più recente del 2019, dove Caetano Veloso è accompagnato da Isa. Sentitevi qua che brano e che bella questa versione, che rinnova un brano così, insomma, così antico, per così dire. Ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção. Precisa ter olhos firmes pra este sol, para essa escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba, exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar o asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Ma che bella questa versione, che forza che ha anche Isa insieme a Caetano Veloso, 2019, Divino Maraviglioso, uno dei brani storici insieme a Gilberto Gil e il grande Caetano Veloso. Ricordo, Banzo, che stiamo mandando in onda questi brani brasiliani non solo per celebrare, festeggiare la vittoria di Lula e insomma ricordare anche quello che è successo a Brasilia, ovviamente non festeggiandolo all'inizio di quest'anno con la riproposizione dei fatti penosi di Washington di 2 anni fa, e che stiamo mandando in onda una serie di canzoni, alcune molto conosciute della canzone d'autore della musica brasiliana, a partire da una playlist, come ricordavamo a inizio puntata, pubblicata da Caetano Veloso dopo la vittoria di Bolsonaro nel 2018. Ci sono tanti brani, alcuni dello stesso Caetano, altri di altri artisti. Prima abbiamo ascoltato anche Chico Buarque o Nara Leao, che appunto ci portano, ci fanno viaggiare in Brasile, un Brasile che ci dà speranze in questo periodo con il governo di Lula. Banzo, ti piace questo mix italo-brasiliano? Come lo vedi? Hai detto tutto tu, Steven, precisissimo. Sì, io più che mix lo definirei doppio binario. Doppio binario, bravo. Abbiamo musica brasiliana e analisi politica italiana, interviste italiane, anche se poi diciamo che verso la fine della puntata ci sarà qualche deviazione da questa traccia musicale, ma non vi anticipo nulla. Comunque è molto gradevole come contrasto. E poi, se mi permetti un'osservazione, ricollegandomi alle tue parole di un paio di minuti fa, ho detto una triste riproposizione dei fatti di Washington, e in effetti era talmente triste e talmente riproposizione che c'era anche l'emulo del famoso sciamano. Eh sì, è vero. Ovviamente, agghindato, pittato con i colori della bandiera brasiliana, che sono diversi da quella statunitense, banalità che non vale la pena ricordare, però ecco, questo dimostra forse che quel personaggio pittoresco e posso immaginare anche estemporaneo nella sua scelta nella sua scelta di presentarsi così, non lo so, è diventato una specie di trademark della destra mondiale. Sì, hai perfettamente ragione. Ma insomma, noi andiamo ad ascoltarci un altro brano, João Bosco e Angela Maria, 1979, ascoltatevi e godetevi questa bella canzone, O Bebado e a Equilibrista, e dopo ritroveremo, perché era stato con noi tempo fa, Leonardo Bianchi, con cui continueremo questa chiacchierata sui primi 100 giorni del governo Meloni, ma anche un po' qual è la sensazione, le percezioni che si respirano nelle strade italiane, insomma un po' che pensano gli italiani di questo governo, almeno insomma glielo chiederemo a Leonardo Bianchi, vedremo se ci aiuterà a capire qualcosa di più al riguardo. O Bebado e a Equilibrista, João Bosco e Angela Maria. Maria, a tarde feito viaduto, e bêbado trajando luto. E lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. E dia cada estrela fria, um brilho de aluguel. E no Abbiamo ora in diretta con noi Leonardo Bianchi, lui è news editor di Vice Italia, autore di due libri, La gente, Viaggio nell'Italia del risentimento del 2017 e il più recente Complotti, uscito nel 2021, tra l'altro anche cura la newsletter Complotti, dove proprio segue un po' tutto questo sottomondo, sottobosco, forse sarebbe meglio dire italiano, ma che in realtà poi è molto simile a quello che succede anche in altri paesi, al di là delle peculiarità italiane. E innanzitutto, Leonardo, ben ritrovato a Zibaldone. Ciao a tutti e tutti e grazie per avermi chiamato. Un piacere riaverti con noi per parlare appunto in questo speciale quest'oggi qui a Zibaldone dei primi 100 giorni più o meno del governo Meloni e per parlare anche un po' della situazione dell'Italia in generale. Ma cominciamo con il governo Meloni. Abbiamo avuto ospite poc'anzi Francesco Olivo, con lui abbiamo parlato di tante cose. Insomma, lui ci diceva alla domanda durerà questo governo? Diceva beh, per il momento insomma non si vedono proprio delle grosse crepe. Vedremo dopo le elezioni regionali in Lazio, Lombardia e Friuli del prossimo mese di febbraio. Tu come la vedi? Sei d'accordo? E qui aggiungo anche un elemento, penso delle questioni che potrebbero essere complicate per l'esecutivo Meloni, come appunto quella dell'autonomia proposta dalla Lega e in concreto dal piano Calderoli. Sì, sono d'accordo e francamente al momento non ci sono motivi per dubitare della tenuta di questo governo. Poi ovviamente si dovrà giudicare sul lungo termine, ma mi ricordo che ad esempio già durante la campagna elettorale si diceva che questo governo, subito dopo le elezioni del 25, che sarebbe durato poco, eccetera, ma se si vanno a vedere proprio i numeri crudi, in questo momento la situazione è di uno sostanziale strapotere di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia su alleati, Lega e Forza Italia, che sono oggettivamente in difficoltà. Ma questo era già chiaro, era già evidentissimo, sia durante la campagna elettorale che subito il 26 settembre, cioè il giorno dopo le elezioni, che ha appunto fotografato questa situazione, questi rapporti di forza all'interno di una coalizione di destra e non di centrodestra, come insomma la definisce la stampa italiana, una coalizione di destra anche con venature estreme su alcuni elementi, su determinati temi, e quindi non vedo perché non dovrebbe durare. Poi certo, come tutti i governi e come chiunque arriva al potere, questi primi mesi sono stati contrassegnati dal sostanziale sgretolamento della propaganda elettorale di fronte alla proprio durezza della realtà, e quindi tutto il libro dei sogni di Giorgia Meloni e le varie, diciamo così, promesse funamboliche sue della coalizione si è scontrato con una situazione economica, energetica e geopolitica estremamente difficile, soprattutto con poco spazio di manovra reale, perché a livello appunto economico, l'abbiamo visto con la legge di bilancio, la strada era già stata segnata dal precedente governo e soprattutto dall'Unione Europea, ma anche qui non c'è nulla di nuovo chiaramente, è una cosa che vale la pena rimarcare, anche perché spesso e volentieri questi leader politici ci hanno abituato alla creazione di realtà parallele che poi si scontrano fragorosamente con la realtà concreta dei fatti, ecco. Un'altra delle questioni di cui si parlava molto in campagna elettorale subito dopo il voto era il fatto che Fratelli d'Italia, partito che fino a 3 anni fa non superava nemmeno il 5%, o insomma lo aveva superato alle europee per la prima volta del 2019, il 6,4% in quell'occasione, non avesse classe dirigente. Ora, alla prova dei fatti, da questa prospettiva, parlando di classe dirigente, tu come la vedi? È riuscito in realtà a dimostrare di avere qualcosa di classe dirigente? La sta creando ora? Ci sta riuscendo? Insomma, dici un po' la tua. Allora, da un certo punto di vista la sta creando, ma è anche fisiologico che lo faccia, perché appunto, come hai ricordato tu, fino al 2018 era un partito che non arrivava neanche al 5%, poi nell'arco di pochi anni si è ritrovato con più del 20%. E questo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Poi bisognerà vedere cosa succede nelle elezioni regionali in Lombardia e in Lazio. Vale lo stesso discorso, cioè comunque un partito che è relativamente giovane, anche se ha un cuore antico, diciamo, molto antico, e banalmente gli mancano gli uomini sul terreno. In questo senso poi lo si vede proprio per andare a bomba su una delle questioni su cui più si è dibattuto, cioè sui legami con una storia neofascista, certo. E proprio con il fascismo storico. Non è un caso che negli ultimi anni tutti gli scandali e le dichiarazioni fasciste siano venute da piccoli consiglieri comunali, consiglieri indipendenti eletti nelle liste di Fratelli d'Italia, in piccoli comuni, in piccole province. È chiaro che c'è un problema, cioè Giorgia Meloni lo sa benissimo questo, che la classe dirigente non è all'altezza del compito che è davanti, e quindi un po' pesca dai vecchi notabili dell'MSI che si sono fatti tutta la trafila, e dall'altro sta cercando di inglobare i vari transfughi dagli altri partiti, cioè soprattutto Forza Italia, che è un partito messo alle strettissime, insomma, e anche da Lega e qualche parte dei 5 Stelle. Quindi sì, quello della classe dirigente interna è un grosso problema per il partito, che più o meno cercheranno di colmare, ma non è che si riesce in così poco tempo. Certo, ecco. Certo. E collegato con questo, uno degli obiettivi che vorrebbe raggiungere, da quanto pare, Giorgia Meloni è quello di costruire una specie di grande partito conservatore italiano, e si collega appunto con quello che tu dicevi anche sulla il tentativo di cooptare, no, classe dirigente da Forza Italia, insomma addirittura dalla ex DC in alcune regioni, soprattutto del centro-sud, ma anche da Lega in parti 5 Stelle. Ecco, tu credi che sia un progetto fattibile, diciamo, ha tutte le carte in regola Meloni per farcela, tenendo conto del contesto italiano internazionale attuale? Questa è una domanda difficile da rispondere, perché penso che non lo sappia neanche Giorgia Meloni. Ecco. Bisogna vedere cosa succede sul campo. Di sicuro c'è un dato interessante su cui ragionare, che ad esempio, però penso che sia più legato allo sfacelo degli altri partiti che alla effettiva forza di Fratelli d'Italia. Mi spiego meglio. Se andiamo a vedere i dati, i flussi elettorali, ad esempio in una regione come il Veneto, che è storicamente a trazione leghista, diciamo che le ultime politiche, fondamentalmente, Fratelli d'Italia ha doppiato la Lega. Sì. Certo, è un voto nazionale che ha delle logiche diverse da quelle regionali, e infatti, ad esempio, il presidente della regione, Zaia, ha fatto l'amplena alle ultime regionali. E ci sono parti del Veneto chiaramente che sono a saldissima trazione leghista. Per questo è importante vedere cosa succederà in Lombardia, ad esempio, perché se ci sarà un travaso di voti, per forza di cose ci sarà anche un travaso di uomini, è legittimo immaginarsi. Quindi finché le cose a Giorgia Meloni da un punto di vista elettorale continuano ad andare bene, per forza di cose ci sarà anche un travaso di uomini, quindi potrebbe riuscire nell'intento di creare un partito conservatore. Poi c'è anche da approfondire cosa si intende per partito conservatore nel 2023, certo. Perché sappiamo che i riferimenti politici e ideologici di Giorgia Meloni sono molto specifici e molto particolari, e lei guarda moltissimo a partiti come Fidesz in Ungheria, o anche al Partito Repubblicano americano, cioè e soprattutto anche a Vox in Spagna, come appunto sai benissimo. E quindi è anche interessante interrogarsi su cosa voglia fare, certo. Che tipo di partito abbia in mente Giorgia Meloni. Al di là del nome, certo, che cosa sia, diciamo, questo contenitore con il nome Partito Conservatore, cosa ci sia davvero poi dentro. E ascolta, un'altra questione che è interessante è anche capire, no? Prima con Francesco Rivo abbiamo parlato un po' di quello che ha fatto questo governo, no? E si è concentrato essenzialmente anche per ragioni ovvie sulla legge di bilancio, al di là di alcuni decreti o dichiarazioni più identitarie, penso ai rave, al POS, alle ONG, con anche degli scivoloni o dei pasticci notevoli, come sulla questione anche delle accise sulla benzina. Ecco, ma al di là di questo, in questi 3 mesi, diciamo, si è visto un cambio reale, al di là di avere una figura diversa da quella di Draghi a Palazzo Chigi, ossia c'è davvero, secondo te, si percepisce un cambiamento? Non lo so se ci sono, secondo te, degli elementi, magari quello dei media, pensando alla televisione pubblica, la RAI, che fa capire che davvero si è entrati in una nuova era? Ci metto molte virgolette. Sì, allora, secondo me il cambiamento è evidente. Questo è un governo politico ben orientato ideologicamente. Questo è il più grande cambiamento che c'è stato. Io penso che si veda anche molto dall'agenda setting di questo governo, cioè nel senso che se il governo decide che quello è il tema del giorno, tutti i media a ruota parlano di quel tema, cosa che magari con un governo misto tecnico-politico come quello di Draghi, in cui c'erano dentro un po' tutti, non era così. Questo ovviamente non è nulla di nuovo, è fisiologico, sia così, specialmente in un contesto come quello italiano. Ma ad esempio il fatto che il primo atto del governo sia stato appunto il decreto anti-rave, la dice lunga, e che si sia parlato per giorni e giorni di un tema fondamentalmente inesistente in Italia, perché i grossi rave in Italia saranno 2-3 all'anno e comunque non sono la fine del mondo, come viene descritta, come era stato descritto in quella conferenza stampa e come era stato descritto da giornali e TV, la dice chiaro anche su appunto la direzione che questo governo vuole imprimere sull'agenda mediatica. Non è un caso, è una cosa che comunque una leader come Giorgia Meloni ha sempre fatto, e insieme anche a Salvini ed altri, cioè comunque sanno perfettamente come funziona la comunicazione, conoscono bene il sistema mediatico, conoscono soprattutto le sue debolezze e i suoi tic, e li sfruttano insomma a pieno regime, poi adesso che sono al governo ancora di più. Quindi sì, da un punto di vista mediatico un cambiamento c'è sicuramente, ma c'è anche da un punto di vista politico, perché appunto certi temi che sono all'ordine del giorno adesso con il governo Draghi per forza di cose non lo erano. Ad esempio il primo che mi viene in mente è la ripresa in grande stile della guerra alle ONG, il tutto in assenza di un'emergenza anche qui. Diciamo che una delle caratteristiche principali di questo governo, che segue lo stile comunicativo di Meloni e Salvini e di altri, è la continua creazione di emergenze che creano a loro volta baraonde mediatiche e poi finiscono lì fondamentalmente, perché certo, non è che si va, non è che vanno avanti. Poi tra l'altro sull'onda di queste emergenze si legifera e, come abbiamo visto nel caso del decreto anti-rave, si producono delle porcherie giuridiche inaudite. Sì. Certo, e tra l'altro anche creare delle baraonde anche per coprire altri argomenti, altre questioni che invece magari sarebbero molto più delicate per Meloni, Salvini o per il governo. E un altro tema interessante, ultimamente insomma si stanno pubblicando sondaggi in cui tra la crisi del PD, le divisioni delle opposizioni e la debolezza degli alleati di Meloni, Fratelli d'Italia sembra continuare a crescere, avendo superato praticamente anche il 30 al 31%, no? Ma se andiamo invece al di là dei sondaggi, un po' nelle strade e un po' insomma in quell'Italia della pancia, dello stomaco, qual è la percezione che hai tu? Meloni sta piacendo davvero? È un voto in fin dei conti come quello del 25 settembre, che unisce un po' di protesta, un po' di stanchezza con un astensionismo altissimo? O insomma, Meloni sta facendo presa su una gran parte del paese? Allora, posto che anche questa è una domanda a cui io penso impossibile dare una risposta, perché nessuno ha veramente il polso, certo, del paese, certo, neanche chi dice di farlo. Quello che tengo a sottolineare è che comunque, al netto dell'astensionismo che è stato altissimo, è stato il più alto di sempre nelle elezioni politiche, il consenso, se ci fermiamo al 25 settembre, cioè con dati reali e comprovabili, non quelli sondaggi, il consenso di Giorgia Meloni è minoritario nel paese, cioè si arriva intorno, se non sbaglio, al 15%. Questo Giorgia Meloni, tra l'altro, lo sa perfettamente, nonostante la retorica roboante, e quindi su certe questioni è molto cauta, specialmente su quelle economiche, anche perché la congiuntura è complicata. In più c'è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato prima, ma che è la principale preoccupazione di tutti, di tutte le persone che vivono in Italia, che è l'inflazione. E il caro bollette e tutto quello che insomma deriva dalle varie crisi in cui siamo immersi in questo momento. Quindi appunto lo spazio di manovra reale sulle questioni che contano davvero non è tanto, e deve stare cioè deve stare molto attenta, perché abbiamo visto anche, qua faccio un discorso più generale se vuoi, abbiamo visto negli ultimi 10 anni, se non di più, che il ciclo della fortuna politica in Italia è incredibilmente breve e sì. Si sta accorciando sempre di più. Se avessimo fatto questa intervista nel 2014 avremmo parlato di Matteo Renzi, ad esempio. Sì. 3 anni fa avremmo parlato di Matteo Salvini, adesso parliamo di Giorgia Meloni. Non so tra 3 anni se parleremo ancora di Giorgia Meloni, ecco. Quindi anche questa è una cosa da tenere molto in conto. Chiaro che in questo momento sembra, diciamo così, inarrestabile, perché ha oggettivamente una prateria politica davanti. Come hai detto tu, l'opposizione di centrosinistra è allo sbando più totale, il PD è un partito che è fondamentalmente inesistente in questo momento, è preso dalle liturgie di partito e dalla necessità di avere un altro segretario, e quindi non incide nella, diciamo, nel racconto mediatico che si fa ogni giorno, ma quello proprio in generale, quello non incide proprio in generale, ecco. E dall'altro lato abbiamo appunto una Lega che sta attraversando una fase difficile, in cui la leadership di Salvini è messa apertamente in discussione da più parti, a partire dal fondatore della Lega, Bossi, e una Forza Italia che chiaramente è appesa al destino di un leader che ormai ha fatto il suo tempo in tutti i sensi, ecco. Quindi in questo senso, se dovessi dire perché Giorgia Meloni cresce nei sondaggi, è perché non... Per il contesto, è ecco. Cioè per diciamo mancanza di competizione, ecco. E poi se invece vogliamo andare proprio nel sottobosco più oscuro del paese, cioè quello che diciamo in questi anni ha espresso manifestazioni come quelle dei Forconi, o comunque fenomeni spuri e difficili da leggere, o che durante la pandemia ha portato la gente in piazza per manifestare contro le restrizioni sanitarie, ecco, quello è interessante vedere quanto siano contrari al governo Meloni, cioè nel senso che Giorgia Meloni non è affatto una figura politica di riferimento per quel mondo, anzi è un nemico, perché per vari motivi, in primo luogo perché ad esempio sulla guerra in Ucraina ha una posizione chiara filoatlantista, poi perché comunque sulla pandemia è vero che ha cercato di ammiccare ad esempio con la questione delle terapie domiciliari, e adesso, insomma, negli ultimi tempi ha fatto dichiarazioni nel senso che appunto non faremo più misure che restringono le libertà personali, che risuonano in certi ambienti, però non la considero una di loro. Certo. È interessante vedere comunque che anche, diciamo, alla destra, dell'estrema destra, c'è molta opposizione nei confronti di Giorgia Meloni, non è una figura ritenuta credibile ed è una dei, fa parte di loro, cioè dei nemici da combattere. Questo, se, come tendo a fare io, cioè a osservare questi fenomeni marginali, ma che poi prima o poi arrivano sempre al centro della scena politica in un modo o nell'altro, potrebbe essere, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, ma potrebbe essere un'anticipazione di quello che sarà più in generale tra un po', ecco. Ma magari no, però sì, potrebbe essere. È comunque interessante notare che quella che dovrebbe essere una parte politica, non dico coincidente con Fratelli d'Italia, ma comunque non apertamente ostile, invece è apertamente ostile. E ascolta, e invece quest'Italia del risentimento che tu così bene avevi descritto ormai 6 anni fa nel libro intitolato La Gente, che in quel momento guardava, no, a Salvini, guardava i 5 Stelle, insomma si muoveva un pochino in quelle coordinate, c'era una parte che ne rimaneva fuori ovviamente. Ecco, e allora quest'Italia del risentimento a chi sta guardando? E soprattutto quell'Italia del risentimento che era nata soprattutto dopo la grande crisi del 2008-2010, che forse il movimento dei Forconi aveva messo per la prima volta, no? Con una insomma, sulle prime pagine dei giornali, è ancora così forte quell'Italia del risentimento come allora, o invece tra la pandemia, le trasformazioni politiche, anche insomma il flop dei 5 Stelle una volta arrivati al governo, diciamo lo sgonfiamento di Salvini e così via, quell'Italia del risentimento è meno organizzata, è meno presente? Sì, è molto più polverizzata, cioè è sempre stata polverizzata, diciamo, però adesso è molto polverizzata e soprattutto non ha alcuna forma di tutela politica. Quello che avevo cercato di sottolineare molto nel libro era che tutte queste manifestazioni hanno raggiunto un'attenzione, hanno raggiunto, cioè sono riusciti a imporsi spesso e volentieri, perché a un certo punto è arrivata una tutela politica da qualcuno, cosa che adesso non avviene. L'abbiamo visto durante la pandemia, cioè le manifestazioni anti-restrizioni hanno sì portato abbastanza gente in piazza, ma nessun partito istituzionale o comunque con una certa presa li ha seguiti o li ha coperti. Sì, certo, c'è stato il tentativo di paragone con Italexit, ma abbiamo visto che comunque le elezioni hanno floppato, ecco. Sì, sì, sì. E anche le elezioni, comunque si vede che, proprio tornando alle elezioni, hanno, invece di creare un cartello unico che loro chiamavano il fronte antisistema, si sono divisi in 1000 partitini, nessuno dei quali ha superato la soglia per entrare in Parlamento. Quindi in questo momento è un mondo che è sprovvisto di tutta la politica, e non a caso si rifugia all'estero, cioè nel mito ad esempio di Putin, che c'è sempre stato, ma dopo l'invasione dell'Ucraina è diventato quasi totalizzante, oppure si rifà a Trump anche, ma anche Trump insomma non è messo molto bene. Quindi è un momento di transizione in cui diciamo che non hanno veri riferimenti politici, e quindi si trovano un po' a predicare nel deserto, però appunto sono fenomeni che non vanno mai sottovalutati, sì, perché sì. Molte volte hanno una funzione, diciamo, di anticipatoria, cioè riescono ad anticipare delle tendenze che poi esplodono all'improvviso, quando meno ce lo si aspetta, ecco. Quindi sì, prestiamogli attenzione, esattamente. E una domanda per chiudere, Leonardo, tornando un po' al governo Meloni. Insomma, abbiamo visto che Meloni ha un contesto molto positivo dal suo punto di vista per cercare di consolidarsi, di affermarsi, vista la situazione dei suoi alleati e dell'opposizione. Allora, detto ciò, quali possono essere, secondo te, sulla sua navigazione dei possibili scogli o degli iceberg che potrebbero addirittura, insomma, farla naufragare, almeno insomma, se pensiamo al prossimo anno? C'è qualche argomento, qualche tematica politica che secondo te potrebbe davvero creare dei problemi a questo governo e soprattutto alla sua leader, a Giorgia Meloni? Io credo che siano fondamentalmente tre gli scogli più grossi. Il primo è l'economia, appunto, è la difficile situazione con l'inflazione e più in generale proprio la crisi economico-energetica, che sono due tesi strettamente legate, a cui dovrà dare qualche tipo di risposta. E per il momento, insomma, lo sciopero dei benzinai non è che depone molto, non fa presagire nulla di buono, ecco. Comunque è una categoria che ha votato Giorgia Meloni e comunque si affidava a questo governo. Il fatto di aver già perso, o comunque perso, di aver già infastidito quella categoria, appunto, non è un bel segno. Il secondo scoglio è l'Unione Europea. L'abbiamo già visto, cioè si sapeva già e l'abbiamo visto subito, ad esempio sull'epopea che è un fatto minore all'interno della legge di bilancio, però, come dicevo prima, è stato, sempre nella questione di dettare l'agenda, è stato un tema ossessivamente trattato, che è quello del tetto ai contanti e del pagamento, e della soglia del pagamento con il POS. Lì, ovviamente, la Commissione Europea ha detto o togliete, sintetizzo brutalmente, o togliete queste robe, oppure il PNR, oppure i fondi ve li scordate. E il terzo è interno, ed è, io direi che è Silvio Berlusconi, cioè sempre lui, nel senso che è vero che gli alleati della coalizione sono molto deboli, ma è proprio perché sono deboli che sono più pericolosi, perché appunto potrebbero arrivare a un punto in cui davvero non hanno più nulla da perdere, o comunque non sono soddisfatti, e veramente basta che Berlusconi stacchi la spina ancora una volta per essere di nuovo l'eterno kingmaker della politica italiana. Rovesciano le carte, rovesciano questo, il tavolo, però, no? Esatto, sì, sì. Esatto, però questo diciamo che è un rischio che ti accolli nel momento in cui fai l'alleanza con un personaggio inaffidabile come Berlusconi. Insomma, la situazione italiana è molto complessa e insomma di luce in fondo al tunnel ancora non se ne vede. E Leonardo, grazie mille, Leonardo Bianchi, di essere stato con noi. Ricordo, news editor di Vice Italia, autore di La Gente, dei Complotti e anche di una bellissima newsletter che vi invito a seguire, che si intitola proprio Complotti. Leonardo, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a te. está no ar, feito de ouro e prata, de filó de nylon. Eles querem salvar as glórias nacionais, as glórias nacionais, coitados. Ninguém me salva, ninguém me engana. Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigana. Eu sou terrível, eu sou o samba. A voz do morto, os pés do torto, cas do porto, a vez do louco, a paz do mundo. Na glória, na glória, eu canto com o mundo que roda. Eu e o Paulinho da viola. Viva o Paulinho da viola. Eu canto com o mundo que roda, mesmo do lado de fora, mesmo que eu não cante agora. Ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou o samba. A voz do mundo, atrás do muro, a vez de tudo, a paz do mundo. Na glória, na glória, na glória, na glória, na glória. That's a rock and roll for Trevor Aracid Almeida. Vabbè, qui forse avete riconosciuto non solo Gaetano Veloso ma anche Os Mutantes, ma soprattutto il brano della canzone A Voz do Morto, ma soprattutto forse vi siete resi conto che era una registrazione live, era il 1968, Banzo. Varrebbe anche la pena ricordare che in quegli anni il Brasile stava vivendo sotto una dittatura militare cominciata nel 1964 e durata più di 20 anni, terminata solo alla metà degli anni 80, nel 1980. Sì, è ovviamente un periodo drammatico come lo è ogni qualunque dittatura militare, però l'esistenza di un gruppo come i Mutantes di per sé era la prova che la vita continuava. Adesso non voglio ingigantire l'importanza di un gruppo musicale, però ecco, quando ci sono delle manifestazioni artistiche di quella portata in periodo di dittatura è qualcosa veramente che vale la pena di far notare, perché diventa un simbolo di resistenza, anche se la musica non è apertamente politica, diciamo. E i Mutantes erano anche un gruppo che come estetica effettivamente si ricollegava moltissimo a quello che era un gruppo fieramente brasiliano, viene annoverato nella corrente del cosiddetto tropicalismo, però al tempo stesso si ricollegava moltissimo ai fermenti musicali, culturali e ideologici del resto del mondo occidentale, perché c'era una fortissima aura di psichedelia intorno alla loro musica e, se mi permetti questo termine, un'irresistibile sensazione di scoppiatismo. Erano scoppiatissimi e mi fa pensare alle sostanze più svariate, però la creatività era a livelli altissimi, non era qualcosa di aneddotico o gratuito. Diciamo che questa libertà creativa veniva incanalata in pezzi veramente veramente fuori dal comune, e i primi due dischi, che si chiamano Os Mutantes, sì, Mutantes, senza l'arte, Mutantes, senza l'articolo, sono veramente qualcosa che consiglio a tutti, ecco, incredibili, musica che dà felicità e che fa viaggiare in un modo non banale, ecco. Eh sì, andiamo con l'ultimo brano di questa selezione di musica brasiliana. Parliamo di Tuse de Abreu, è un brano più recente, il 2019, si intitola Gaiola Invisível. E voi vi domanderete, ma com'è possibile che un brano del 19 sia contenuto in una playlist elaborata da Caetano Veloso nel 2018? Ecco, la risposta è molto semplice, che questa playlist poi Caetano l'ha aggiornata, quindi introducendo anche altri brani come appunto questo. Dimmi Banzo. Peccato Steven, perché per un attimo ho sperato nel paradosso temporale quasi per... Gaiola Invisível, Tuse de Abreu, dal disco Contraduzindo, eccola qui. Você quis sair comigo por aí, porque você estava tão feliz e o sol estava tão bonito, tão bonito. Nesse dia você percebeu que podia ver todas as transas desse mundo, que tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo é possível de se pensar. Nesse dia você até falou sobre a Ave Maria de Gounod e sobre o que você sente quando ouve todo dia às 6 horas na igreja de Nazaré toca. Dopo gli scontri di ieri in un autogrill sulla 1, oltre 1200 sostenitori di Bolsonaro stanno mettendo a dura prova i pronto soccorso con devastanti effetti dai satelliti, le immagini di lunghissime code. L'ex presidente sconfitto alle ultime elezioni, ricoverato in ospedale alla Magliana, prende le distanze da siccità e cambiamento climatico. Facciamo piangere altri per una cosa così stupida. Sciocca Roma. La premier nel giorno del compleanno sostiene di aver conquistato Piquet davanti al ristorante dove lui aveva insistito per incontrarla. Tutto procede secondo i piani per la costruzione di batterie per un'utilitaria concreta, veloce e coraggiosa, e riceve la telefonata di Silvio Berlusconi per parlare di Tom Morello senza risposta. Nel segno dell'ottimismo e di numeri incoraggianti continua la corsa del prezzo dei carburanti. Il governo al lavoro e si valutano interventi per 35 minuti previsti, un tetto alla gravità della situazione e l'obbligo per i gestori di esporre anche il debito medio. Un fungo minaccia di dialogare con il ministro Piantedosi sulle grandi questioni del nostro tempo. Una potente critica contro l'effimero e il nuovo singolo dei Maneskin. Coltiviamo come San Giovanni la virtù di farci da parte al momento opportuno. I quattro candidati alla segreteria. PD non rimarrà senza risposta. Allo studio, a Teheran, l'esecuzione della canzone come inasprimento della pena. È uscito in tutto il mondo Zafaranas. Il libro del principe Harry, fedele alle anticipazioni, contiene sperma della famiglia reale e particolari molto privati delle giacche, anche per il tempo libero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nessun impatto in Europa. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta, siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda, occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda, Steven fa la domanda. E sono tornate, l'avete sentito, anche le ultimissime, è tornata anche la sigla di Dejan e Cane, che da tanto che non sentiamo, dobbiamo risentirli. E soprattutto però, Banzo, sì, sono tornate le ultimissime con tante notizie che come sempre ci mostrano una realtà un po' diversa da quella che pensavamo di conoscere leggendo i giornali e guardando i telegiornali mainstream, no? Insomma, ci sono alcune notizie che mi piacerebbe commentare con te, per quanto rapidamente. Innanzitutto Bolsonaro la magliana, io lo pensavo altrove, è abbastanza sorprendente con i suoi supporter che fanno collassare il pronto soccorso. Non si specifica se il pronto soccorso del Brasile o di Roma, però ecco qui appunto diciamo che si apre forse un altro paradosso, come il paradosso temporale che stavo auspicando prima. Poi c'è anche una concessione alla cronaca rosa con questa vanteria di Giorgia Meloni che sostiene di aver conquistato Piqué, suppongo l'ex calciatore del Barça e ex marito di Shakira, che, del quale ultimamente si parla moltissimo. Banzo, ma sai se Meloni ha anche detto qualcosa rispetto al Rolex, il Casio, no? La Twingo, niente. Non lo so, forse però il suo governo è una Twingo paragonato a qualunque, vabbè, niente, poi io non so guidare, quindi anche questi paragoni automobilistici mi lasciano un po' freddo. Comunque ecco, c'era questo spazio della cronaca rosa con la Meloni che, non so, vanta conquiste improbabili. Ma parliamo invece, scusa, di questa telefonata riguardo a Tom Morello con Silvio? No, questo è veramente sconcertante, non mi sarei mai aspettato che si parlasse di Tom Morello delle ultimissime, sono abbastanza perplesso e non lo so, vediamo se ci saranno nuovi sviluppi. Non sapevo che Silvio Berlusconi fosse un fan dei Rage Against the Machine, non c'è mai limite, diciamo, alla sorpresa della vita, ecco. Dai, chiudiamo rapidamente con un altro commento su la pubblicazione di questo libro, che sembra essere un best seller, soprattutto nel Regno Unito, del principe Harry. Non voglio sapere cosa c'è dentro, l'ho sentito, ma non voglio ricordarlo, però volevo invece sviare la tua attenzione ricordando che il nuovo singolo dei Maneskin è annunciato da, verrà innanzitutto usato a Teheran per inasprire le pene, quindi vedete, ecco, si dice che il regime iraniano è chiuso rispetto alla realtà invece del mondo esterno, invece non è vero, però i Maneskin, che molto molto ecumenicamente dicono che coltivano come San Giovanni la virtù di farsi da parte nel momento opportuno, eppure stanno continuando a suonare, quindi forse c'è un po' una contraddizione. Ecco. Eh sì, vabbè, noi andiamo avanti perché torna anche quest'oggi, come è tornato Zibaldone, anche la nostra rubrica del libro della settimana, quindi andiamo con la sigletta che ci introduce il libro di questa settimana di venerdì 20 gennaio. Zibaldone. Perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Sì, eccolo qua la sigletta del libro della settimana di Zibaldone con la voce anche registrata del Banzo. Bando alle ciance, Banzo, perché ci rimangono io credo una ventina di minuti, abbiamo ancora parecchie cose da dire. Quest'oggi il libro della settimana è un libro di cui ti sei occupato tu, un libro direi molto bello e che ci riporta a bomba dalla politica italiana invece alla musica italiana. Valerio Mattioli, Superonda, storia segreta della musica italiana, pubblicato per i tipi di Baldini e Castoldi nel 2016, quindi ormai già 7 anni fa. Esatto, ancora non 7 anni perché è uscito a giugno di quell'anno, però ecco, qual è il casus belli per parlare di questo libro? Nessuno, si tratta semplicemente di un libro bellissimo che non avevamo ancora coperto e che trovo anche in sintonia a volte con le vibe zibaldoniane. Allora, è la storia della musica italiana in un periodo molto concreto, fra il 1964 e il 1976, però prima di dilungarmi vorrei specificare chi è Valerio Mattioli, che ne è l'autore. È un giornalista musicale romano che è una firma di spicco della rivista Blow Up, aveva firmato in precedenza per esempio un libro sulla scena noise americana degli anni 2000, Noisers, e siamo qui completamente da altre parti come attitudini musicali. Ecco, appunto, dicevo, si parla di un periodo concreto della storia della musica italiana, cioè fra il 1964 e il 1976. Perché questo periodo concreto? Perché è uscita tanta musica bellissima, sì, ma non solo. Mattioli nel suo libro, che è molto voluminoso, sono 650 pagine, analizza l'idea che le varie musiche italiane che sono uscite in quel periodo possono essere ricondotte sotto l'ombrello di un genere ipotetico denominato spaghetti sound, con un'allusione al corrispettivo tedesco del krautrock, che è un genere che si è affermato appunto fra la fine dei 60 e gli anni 70. Poi è lui stesso a definire questo genere come un'ipotesi, diciamo. E sostanzialmente anche perché rispetto al krautrock, che ha delle caratteristiche sonore pur nella sua vastità abbastanza riconoscibili, come ad esempio il caratteristico ritmo motorico, ecco, nel corrispettivo italiano questi elementi non li abbiamo. Però appunto Mattioli prova a tracciare una serie di similitudini, analogie anche ambientali, culturali, fra una quantità di musiche disparatissime, un ventaglio molto ampio. Cioè, perché fra il 64 e il 76? Beh, perché il 64 è sia l'anno di uscita della colonna sonora di Per un pugno di dollari di Morricone, che certo, nel libro gioca la parte del leone, non di Sergio, siamo capiti, e è anche l'anno d'esordio dei primi complessi beat, come si chiamavano allora, che nel bene e nel male sono stati un rinnovamento della scena musicale italiana, mentre il 76 chiude un po' un'epoca con l'ultimo festival del proletariato giovanile del Parco Lambro a Milano, che fu un'autentica catastrofe, quindi si può ben considerare la fine di un'epoca. Ecco, e in questo lasso di tempo appunto lo spaghetti sound coprirebbe musiche di derivazione, diciamo, più o meno rock, di attitudine anche simile assimilabile al rock, ma svincolata dai modelli anglosassoni. Quindi questa è la cosa importante, che era un suono che magari si nutriva di riferimenti inizialmente esterni, ma poi diventava autoctono. E fin qui, appunto, ho detto musiche molto disparate, perché c'è veramente di tutto. I capitoli sono a volte ardittissimi nei salti, c'è il primo capitolo sulla scena rock and roll italiana dei primi anni 60 e il secondo si passa alla musica colta e ai compositori del giro di Darmstadt in Germania, quindi già questo dà l'idea di un respiro. Poi comunque i capitoli sono dei saggi quasi a sé stante, anche se spesso ci sono delle sovrapposizioni, e la varietà dei riferimenti musicali, come ho detto già molte volte, è notevolissima. E si, oltre a Morricone, ad esempio, un'altra figura alla quale viene dedicato moltissimo spazio è Franco Battiato, che in quel periodo pubblicava i dischi, cioè la prima metà degli anni 70, del suo cosiddetto periodo sperimentale, e quindi è un viaggio assolutamente interessantissimo. Ecco, credo di dovervi dare ancora qualche riferimento in più sullo spettro delle musiche trattate. Abbiamo detto la musica colta, le colonne sonore, aggiungiamo La Storia delle Stelle, gruppo creato dall'artista Mario Schifano, oppure ad esempio la scena romana di quel periodo, la musica di improvvisazione del gruppo Nuova Consonanza con gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza di Franco Evangelisti, musica elettronica viva, i compositori americani a Roma in quel periodo, e poi anche il progressive napoletano, che ha un capitolo a parte, l'esperienza della Cramps, il free jazz del periodo, ma anche il folk revival, il periodo minimalista di Alvin Curran di musica elettronica viva, Battiato, Claudio Rocchi, la library, cioè la musica da sonorizzazioni, e i Goblin, c'è un sacco di cose davvero da scoprire. Prima del capitolo conclusivo, un capitolo intero su Anima Latina di Lucio Battisti. Ecco, perché appunto ho detto moltissime volte che si affrontava una varietà di stili sconcertante, però nella lettura troverete comunque, ovviamente non è un genere uniforme, ma troverete, diciamo, una continuità di spettro. Ecco, diciamo che erano tutti elementi che contribuivano alla definizione di una scena molto originale e molto italiana anche al tempo stesso, però svincolata dai riferimenti caratteristici del bel canto. Questo è importante ricordarlo. Poi, come ultima notazione, direi che benché non si tratti di un libro di storia sociale o di storia tout court o ancora meno di storia politica, ma diciamo è un libro di storia della musica italiana, lo scenario socioculturale del periodo viene trattato non solo per veloci riferimenti, ma spesso ci sono degli intrecci, degli esempi che definiscono meglio il contesto anche delle musiche trattate. Per esempio, il primo capitolo sulla scena rock and roll italiana si apre con una citazione della Dolce Vita, di una scena della Dolce Vita. Quindi insomma, ci sono tante cose in questo super. Io direi che tutti gli elementi danno proprio la tutti gli elementi danno la sensazione di poter compiere un autentico viaggio nel tempo, ed è quello che ho sentito io durante la lettura, che nonostante la lunghezza del libro è stata molto veloce, e veramente, non lo so, adesso dirò una cosa banale, però l'Italia di quel periodo, musicalmente e non solo, era un crogiuolo di grande fermento, e probabilmente, ecco, io l'ho letto con la nostalgia di un tempo che non ho neanche vissuto, ecco. Insomma, mi ha fatto venire voglia anche a me di leggere questo libro, Super Onda, Storia Segreta della Musica Italiana di Valerio Mattioli, uscito nel 2016 per Baldini e Castoldi, è il libro della settimana di Zibaldone. We'll be right back. una idea, un concepte, una idea, mentre sigui una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució. A Virgínia el senyor Brown era l'home més antiracista. La filla s'enamorà d'un home de color i ell digué, vaja, però no estava de bon humor. A una conferència de dones feministes es parlava de prendre consciència i d'alliberació, tot de coses justes, però per una altra generació. Una idea, un concepte, una idea, mentre resta una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució. En un llibre de psicologia he après a educar el meu fill. Si puja lliure el noi estarà més content. Jo l'he deixat fer i ja en tinc prou amb un escarment. Un amic meu volia educar la família amb idees noves. Li digué a la dona, si vols em pots fer el salt. Ella ho va fer, del disgust ha caigut malalt. Una idea, un concepte, una idea, mentre resta una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució. Tenia tantes idees, era un home d'avantguarda, es vestia de nova cultura, canviava cada moment, però quan estava nu, era un home del 1800. He volgut anar a una manifestació. Els companys, la lluita de classe és un món més vell, que ja porto al cap, però encara no dins la pell. Una idea, un concepte, una idea, mentre resta una idea, és només una abstracció. Si em pogués menjar una idea, hauria fet la meva revolució, la meva revolució, la meva revolució, la meva revolució. E vabbè, avete sentito, forse l'avete riconosciuto che è una canzone di Giorgio Gaber, solo che era in una versione in catalano, tra l'altro cantata con una bella voce, quella di Salvador Escamilla, che nel 1976 incise alcune canzoni di Giorgio Gaber in catalano, contenute in un disco L'un e l'altra, tra cui appunto questa Una idea. Salvador Escamilla, insomma, è una persona che tra l'altro ha anche delle relazioni con noi che stiamo facendo radio, perché appunto la sua bella voce è quella di uno dei più importanti speaker radiofonici catalani e spagnoli. È scomparso nel 2008, ma insomma fin dagli anni 70 praticamente, insomma, ma già da prima è stato in quasi tutte le radio e insomma era famosissimo, e dopo la sua morte è stato istituito dall'Accademia delle Arti e le Scienze Radiofoniche della Spagna, appunto un premio, il premio Salvador Escamilla del radio, proprio in sua memoria. E tra l'altro, insomma, non è un caso che Escamilla abbia cantato Giorgio Gaber, perché nel 64, proprio da attraverso il suo programma Radio Scope di Radio Barcellona, si era convertito in uno dei primissimi promotori della nuova canzò catalana, dando proprio la prima una delle prime opportunità a un giovanissimo Joan Manuel Serrat, che non ha bisogno di presentazioni. Banzo, perché mandiamo in onda questo brano di Giorgio Gaber nella versione di Escamilla? Questo è importante spiegarlo ai nostri ascoltatori. Perché, come avevi annunciato prima, Steven, stiamo lanciando una nuova rubrica. Eh sì, che si chiama Rullo di tamburi? Aspetta, rullo? No, niente, rullo? No, non c'è, lo immaginiamo il rullo, ecco. Ecco, sentite il rullo nel vostro cuore, compressore, d'Italia a otra parte, cioè dall'Italia altrove, ecco. Eh sì, perché? Perché questo si collega con uno speciale che abbiamo fatto ormai praticamente 3 anni fa, che era durato parecchie puntate e che era l'Italia canta in spagnolo, ossia artisti italiani che avevano interpretato in lingua spagnola, tradotte le proprie canzoni per il mercato appunto della penisola iberica o latinoamericano. Ecco, in questo caso invece è una cosa un po' diversa. Sì, quella serie di speciali, Steven, io la porto nel cuore, presto ne uscirà un'edizione in 10 CD, no, non è vero, però erano state 10 puntate. Ecco, qui vogliamo riprendere quel discorso perché quella serie di speciali ci piacque molto, ci accompagnò anche in un momento particolare come era l'inizio del lockdown, la pandemia del Covid, però ecco, ci sembrava bello riprendere quel discorso ma in un formato più tascabile, ecco, con una rubrica. Quindi parleremo di canzoni italiane tradotte generalmente in spagnolo, anche se questa volta abbiamo fatto un'eccezione, però non cantate dagli interpreti originali ma da interpreti stranieri. Ecco, quindi non avremo come in L'Italia canta in spagnol magari la pronuncia claudicante di un cantante italiano che non è molto avvezzo alla lingua spagnola, ma avremo generalmente dei cantanti madrelingua che interpretano canzoni tradotte che vengono dal repertorio italiano e che magari, appunto a causa dell'interprete, non sono state riconosciute dal pubblico di riferimento come pezzi italiani, ecco perché non c'era il collegamento diretto con l'artista dello stivale, ecco. Effettivamente, insomma, quindi quest'oggi cominciamo con questo omaggio a Giorgio Gaber, anche perché in questi giorni ricorre l'anniversario della scomparsa del grandissimo attore, cantautore, artista tutto tondo, insomma, Giorgio Gaber, e con appunto questo doppio omaggio, queste due versioni di Salvatore Scamilla. Una è quella di Una idea che ci siamo appena ascoltati, dallo stesso disco uscito nel 1976, ci ascoltiamo invece questa fantastica Shampoo, che non ha bisogno di presentazioni. Però ecco, ora ve l'andate a ascoltare in catalano e sono sicuro praticamente che il 99,9% di voi che ci state ascoltando non l'avevate mai sentita prima. El Shampoo, Giorgio Gaber, cantato da Salvador Escamilla, eccolo qua. Occhi in dia me sleggi, m'è tancato a pensar. Tinc la vida fumuda, no, no la puc arreglar. No hi trobo cap sortida, però potser que em renti el cap. Sí, un rentat de cap. Oh, quin dia més bèstia, que no es mou ni una fulla. Tinc el cap embotit, no em ve de gust fer res. No hi trobo cap sortida, m'he de rentar el cap, per força. Amb xampú, sí. Sí, un bon xampú és precís. Raja l'aigua, ruixa l'aigua, tèbia, freda, tèbia. Justa. Xampú vermell i groc, quina marca em va millor? Aquesta. Escuma, tendra, dolça, blanca, lleu, lleu, sembla nata, sembla neu. L'escuma és una cosa bona, com la mama que t'acaricia el caparró quan estàs trist i cansat. Una mama enorme, una mama tota blanca. Blanca. Escampo, escampo, escampo. Segona part o segona frega. De segur que és el millor aquell groc sense càmfor. Els millors són els més cars perquè són anti-anti-caspa. Espuma tendra, dolça, blanca, lleu, lleu, sembla nata, sembla neu. L'escuma és una cosa pura, com la llet purifica el dins. L'escuma és una cosa sagrada, és com una cascada de llet que té de ser molt pura, perquè si no, fora mala llet i ja n'hi ha massa. L'escuma és una cosa sagrada, com una vaca índia. M'aixugo, m'aixugo, m'aixugo. I ara, de cap al secador. El shampoo, Giorgio Gaber, cantato da Salvatore Scamiglia. Banzo, siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone, di questo 20 gennaio, molto freddo anche qui a Barcellona, insomma arriverà anche l'estate. Noi siamo contenti di essere tornati, torneremo anche venerdì prossimo, quindi insomma ricordatevi sempre che ci trovate qui su Radio Contrabbanda dalle 18 alle 20, 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world alla web www.contrabbanda.org e infine ovviamente scaricabili, siamo proprio scaricabili in podcast anche io e il Banzo, ecco, dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. E soprattutto con me non c'è via di scampo, ore di deliri, beh, insomma ve la siete cercata un po'. Sì, noi ci salutiamo con un brano che ci porta un po' lontano dall'Italia e dal Brasile, e troviamo un brano, una versione inedita di una canzone di Joe Strummer, parliamo di The Road to Rock and Roll, e questo è il brano con cui vi salutiamo, che è uscito la scorsa estate in una raccolta che appunto raccoglie, in quanto raccolta, i brani dell'ultima tappa di vita di Joe Strummer insieme ai Mescaleros. Joe Strummer, The Mescalero Years, è uscita ad agosto, e ci sono parecchi brani inediti o versioni inedite di brani anche piuttosto rari, tra cui questa The Road to Rock and Roll, una versione demo. Noi ci salutiamo con questo brano e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Fate l'amore con il sapore, soprattutto buon venerdì sera, o come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, parlo di Enrique Tierno Galván. Forse uno dei miei più grandi rammarici è che non si potesse fare una rima perfetta fra shampoo e scampo come nella versione italiana, ecco. Banzo, grazie di essere stato con noi, ci troviamo di nuovo qui venerdì prossimo. Grazie a te Steven, a venerdì prossimo. Bye bye, godetevi questa inedito di Joe Strummer. Buon venerdì sera. On the road to rock and roll, a lot of wrecks in the ravine. Some used to hang out on the scene. On the road to rock and roll, you'll be in the Delta by and by. If you don't believe in good and evil, you better tell the devil why. On the road to rock and roll, come on everybody, spook the highway wind, blowing off old parchment farm. On the road to rock and roll, they'll try to hook you by